Milano. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Quello che è considerato il numero 3 del Vaticano a capo delle finanze, incriminato per pedofilia, il cardinal Pell, congedato temporaneamente, andrà in Australia per difendersi. Migranti ancora sbarchi da Catania, Salerno, Reggio Calabria, al limite raggiunto, l'Europa faccia sul serio, dice Minniti, che conferma l'ipotesi di chiusura dei porti. Siccità, è ancora crisi in molte regioni del centro-sud, in Sicilia iniziano gli incendi, ma i forestali sono senza benzina per le autobotti. L'esercito iracheno conquista le rovine della moschea di Mosul. Secondo la televisione di Stato, con questa operazione l'ISIS è finito. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. E c'è la nostra pagina Facebook, così come la pagina Facebook di Radio 24, da entrambe andiamo anche in diretta video, quindi se ci volete vedere, ci vedete là e potete anche commentare là se credete. In apertura andiamo in Vaticano, dove si alza il livello delle accuse per il cardinal Pell. There's been relentless character assassination. Il cardinale George Pell, prefetto per gli affari economici del Vaticano, si dichiara innocente rispetto alle accuse di reati sessuali su minori per cui è stato incriminato. Parlando in Vaticano, Pell ha detto di essere innocente, di non vedere l'ora di essere ascoltato in tribunale. Le accuse aggiunte sono false, l'intera ipotesi di abusi sessuali mi ripugna. Il cardinale australiano è ora atteso a Melbourne il 18 luglio per rispondere ai giudici. Poche ore prima, dal sud dell'Australia, era intervenuto Sean Patton, portavoce della polizia dello Stato di Victoria, che in un breve intervento, giunto dopo che da giorni circolavano indiscrezioni sulla vicenda, ha spiegato che le accuse si riferiscono a episodi accaduti nei primi anni 70, quando dagli studi in Europa Pell rientra nella sua Ballarat, una cittadina nord-ovest di Melbourne, dove assume diversi incarichi in alcune parrocchie della diocesi. Il Papa, in un comunicato, spiega che nel pieno rispetto delle leggi civili e riconoscendo l'importanza che il processo possa svolgersi in modo giusto, ha concesso al prelato un periodo di congedo per potersi difendere. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. L'analisi del vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. La vicenda giudiziaria che travolge il cardinale Pell, dal 2014 prefetto della Segreteria per l'Economia, è una crisi senza precedenti per la Curia Vaticana. Il porporato australiano, il più alto esponente della gerarchia mai coinvolto in casi di abusi sessuali, che in questo caso tra l'altro prevedono accuse dirette di reati e non solo coperture di presunti abusi commessi da altri. I processi faranno il loro corso e il cardinale respinge totalmente gli addebiti, ma in questo caso andrà in Australia, fino ad oggi non c'era mai stato. Il Papa gli ha concesso un lungo congedo che prelude l'uscita definitiva del cardinale dall'incarico, vista anche la sua età di 76 anni, quindi già pensionabile. La vicenda inoltre suona un po' anche come l'epilogo della tribolata stagione delle riforme delle finanze vaticane, che Pell aveva cercato di impostare in chiave puramente finanziaria, mentre serviva un approccio evidentemente diverso. Il recente dimissionamento, tra l'altro, del revisore generale Libero Milone, voluto da Pell in quella posizione, è stata un'ulteriore conferma che la riforma, approvata pure dal Papa, non ha funzionato e forse il cantiere tra qualche tempo dovrà essere riaperto. L'altro tema in primo piano in queste ore, sul quale poi torneremo nel corso della puntata di Effetto Giorno con vari approfondimenti, soprattutto dai porti di approdo dei migranti, è appunto la questione dell'immigrazione con l'Italia, che come vi abbiamo raccontato anche nei GR di questa mattina ha scelto una linea dura, confermata tra l'altro dal Ministro dell'Interno Minniti in un'intervista di questa mattina, ed è la decisione appunto di chiudere i porti, o quantomeno minacciare di chiudere i porti alle ONG che non battono bandiera italiana. Il servizio. 2.500 in Calabria, 447 a Messina, 1.200 in Campania. Sono gli sbarchi di oggi che si vanno ad aggiungere ai 12.000 migranti arrivati nelle precedenti 48 ore. A dire la verità, a giugno il numero di arrivi però è in calo rispetto a giugno 2016, 14.000 contro 22.000, ma l'Italia è sottoposta da anni a uno sforzo di accoglienza, il clima è molto teso e il picco delle ultime ore porta all'esasperazione, tanto che il governo sta ipotizzando la possibilità di negare l'approdo nei porti italiani alle navi che effettuano salvataggi dei migranti davanti alla Libia, ma battono bandiera diversa da quella italiana. Tutto questo spinge l'Italia a premere ulteriormente sui partner europei, mentre si avvicina un G20, in parte dedicato al tema, e due vertici il 6 luglio a Tallinn e a Roma che affronteranno l'argomento. Si parlerà di sbarchi, ma anche di rimpatri e ricollocamenti. Questi ultimi procedono con il contagocce. Sono 15.000 i migranti ricollocati dalla Grecia e appena 7.000 dall'Italia. Ma il nostro paese ha un problema in più rispetto ad Atene. Da noi arrivano infatti soprattutto migranti economici che non sono quindi ricollocabili. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È sempre la nostra Valentina Furlanetto, ha intervistato Lucio Melandri, che è responsabile UNICEF per l'Europa. Sentiamo. UNICEF la interpreta come una provocazione e speriamo rimanga tale, nel senso che condividiamo in pieno le preoccupazioni delle istituzioni italiane che si trovano a far fronte comunque ad un arrivo quotidiano di tutta una serie di persone. Ora non si tratta di invasione, perché i numeri, se li confrontiamo anche agli anni passati, rimangono molto negli standard. Quello che viene a mancare veramente è un livello di solidarietà e di responsabilità condivisa dei altri membri dell'Unione Europea. Dico, speriamo che non vada a essere implementata, perché questa risulterebbe inevitabilmente in due fattori molto negativi. Il primo, l'aumento delle vittime e dei morti in mare. Se una nave che ha soccorso persone deve percorrere giornate e giornate prima di poter disimbarcare e rilasciare le persone, significa che la capacità di salvataggio e quindi di soccorrere persone in rischio di vita si ridurrebbe drasticamente. La seconda sarebbe quella che già vediamo con grande evidenza, che le persone non avrebbero alternativa ma fare sempre più riferimento alle organizzazioni di traffici di esseri umani. Vedremo come andrà a finire questa vicenda e come andranno a finire queste minacce dell'Italia, che al momento ovviamente danno più l'impressione di essere un tentativo di far muovere l'Unione Europea. Di certo ne torneremo a parlare, come si diceva nel corso della trasmissione, dal punto di vista della cronaca. Lo faremo col nuovo sindaco di Lampedusa, quello che ha vinto le ultime elezioni contro Giusi Nicolini, e anche col sindaco del comune di Augusta. Augusta è un altro di quei posti nei quali gli sbarchi sono continui e ce ne occuperemo anche con Save the Children, che in questo momento sta sbarcando 1.000 persone nel porto di Reggio Calabria, quindi ampi spazi di effetto giorno dedicati a questo. Nuovi criteri intanto negli Stati Uniti per la concessione dei visti ai cittadini dei 6 paesi a maggioranza musulmana per l'esenzione dell'applicazione del cosiddetto bando anti-Islam. Serviranno stretti legami di famiglia o di affari. La decisione, dopo che la Suprema Corte ha deciso di lasciare in vigore il bando presidenziale appunto anti-musulmani, e la stretta, lo ricordiamo, riguarda Siria, Sudan, Somalia, Libia, Iran e Yemen. Esenti solo giornalisti, studenti o professori, mentre le nuove norme varranno anche per gli aspiranti rifugiati. Veniamo all'Iraq, dove il comandante dell'offensiva governativa irachena per riconquistare Mosul ha detto che le forze lealiste hanno occupato oggi le rovine della storica moschea al-Nuri, distrutta alcuni giorni fa, da dove nel luglio del 2014 Abu Bakr al-Baghdadi proclamò la rinascita del califfato. Secondo la TV di Stato irachena, questa rappresenta la fine dell'ISIS. Il commento di Alberto Negri. Le forze irachene hanno preso il controllo della storica moschea di al-Nuri, del minareto pendente di Adba, detto il Gobbo, e del souk della città vecchia di Mosul. La scorsa settimana la moschea, dove al-Baghdadi proclamò nel giugno 2014 il califfato, è stata distrutta. Il governo di Baghdad ha accusato l'ISIS. I jihadisti hanno replicato che è stato un bombardamento degli americani. Ma tra qualche anno, scavando tra le macerie dell'Iraq, sembrerà persino assurdo rintracciare le responsabilità. Riflettiamo un momento sulla parabola di questo paese. Nel 1980 Saddam Hussein attaccò l'Iran con una guerra di 8 anni e 1 milione di morti. Poi nel 1991 fu bombardato dopo l'occupazione del Kuwait. Nel 2003 gli americani lo cacciarono dal potere, consegnando il paese alla maggioranza sciita, ma anche a un decennio di terrorismo, prima di Al-Qaeda e poi dell'ISIS. In Iraq oggi ci sono 6-7 milioni di profughi. Le minoranze, dai cristiani agli yazidi, sono state decimate. E se non fosse per il petrolio, probabilmente il paese sarebbe stato dimenticato. Tutte le cosiddette vittorie in Iraq sono costruite su macerie materiali e morali. Eppure questa era un tempo la Mesopotamia, culla della civiltà. Siamo alla cronaca, c'è anche l'ex sindaco di Niscemi, Francesco La Rosa, tra gli arrestati nell'inchiesta della DDA della procura di Caltanissetta per voto di scambio mafioso. Per lui un ex consigliere comunale della sua lista e due esponenti del suo entourage sono stati disposti gli arresti domiciliari. Ad appoggiarlo, secondo la tesi della procura, sarebbero stati il boss di Niscemi, Giancarlo Giugno, e di Gela, Alessandro Barberi. Ucciso in ospedale con la soda caustica, l'arresto di un'infermiera fa intuire e fa immaginare alla procura l'ipotesi di una vendetta. Svolta nelle indagini per l'assassinio in una corsia dell'ospedale di Venafro in provincia di Isernia, avvenuto un anno fa. I carabinieri hanno arrestato l'unica indagata, Anna Minchella, un'infermiera 45enne che avrebbe ucciso un anziano facendogli bere soda caustica. La vittima è Celestino Valentino, 77enne, di Pratella, in provincia di Caserta. L'uomo era ricoverato da diversi mesi al Santissimo Rosario, struttura ospedaliera di Venafro, per un'ischemia cerebrale che gli rendeva impossibile ogni movimento. L'accusa per la donna, incastrata anche da un filmato delle telecamere a circuito chiuso di un negozio che la mostrano mentre acquistava soda caustica, e di omicidio volontario. Secondo gli investigatori, alla base del gesto ci sarebbe un trasferimento toccato a lei e non alla figlia della vittima, anch'essa infermiera, che per via della malattia del padre aveva potuto usufruire della legge 104. Era il 22 giugno dello scorso anno quando la moglie dell'anziano e la figlia lo trovarono in condizioni terribili per le lesioni alla bocca e alla trachea provocate dal passaggio della sostanza corrosiva. Il 77enne fu trasferito all'ospedale di Isernia, dove morì alcuni giorni dopo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stata formalmente accusata dalla polizia britannica di omicidio la giovane donna arrestata ieri nelle indagini sull'uccisione di Pietro Sanna, il 23enne sardo accoltellato a morte l'altro giorno a Londra. Si tratta di Hasna Begum, 25 anni, originaria del Bangladesh, indicata da alcuni media del Regno Unito come coinquilina di Sanna e da altri come vicina di casa. Comparirà oggi davanti al giudice della Thames Magistrates Court per la convalida dell'arresto. Le misure di prevenzione anti-stalker. Mentre è polemica sulla previsione della legge di riforma del codice penale approdata in Parlamento, per la quale i colpevoli di alcuni reati, come appunto lo stalking, potranno estinguerli pagando una somma ritenuta adeguata dal giudice, molti tribunali, come quello di Milano, stanno attuando le misure di prevenzione anche in caso di stalking. Consistono in 9 ore di coprifuoco per lo stalker nella notte e in divieti di avvicinamento o contatti con la donna. Anna Marino ha raggiunto il primo procuratore che ha adottato questi provvedimenti, quello di Tivoli, Francesco Menditto. Sentiamo. Ci siamo trovati in una situazione molto drammatica, un maltrattatore seriale nei confronti di moglie e figli, condannato a 2 anni e 6 mesi, doveva essere scarcerato per espiazione pena, quindi non c'era più nulla da fare. Appena uscito avrebbe probabilmente massacrato la moglie, come ci segnalava la sua avvocata. L'unico strumento possibile che abbiamo ideato in quel momento era l'utilizzo delle misure di prevenzione, altrimenti avremmo dovuto, col codice penale, attendere che la donna fosse picchiata e dopo che era stata massacrata l'avremmo potuto arrestare, il che è assurdo. In che cosa consiste questa misura di prevenzione? Nell'obbligo di rimanere all'interno del comune di residenza, nell'obbligo di rimanere in casa dalle 21 alle 7 di mattina, dall'obbligo di comunicare l'eventuale allontanamento da questa casa, vari obblighi per consentire che sia controllato. Per quanto durano queste misure di prevenzione e per quanto è protetta alla fine la donna? Queste misure di prevenzione hanno una durata massima di 5 anni, ma possono essere prorogate nel tempo. Quindi possono durare tutto il tempo per cui c'è il pericolo, quindi la donna può stare tranquilla. E veniamo alla politica. Con Matteo Renzi sempre sotto attacco dopo la sconfitta alle amministrative, le diverse anime del centro-sinistra si preparano ad un confronto a distanza sull'asse Roma-Milano. Da domani il segretario Dem riunirà i suoi sostenitori per 1 o 2 giorni nel capoluogo lombardo. Le polemiche lasciamole a chi le fa di professione, parliamo di questioni vere, scrive stamattina Renzi su Facebook, assicurando che non si farà logorare. Dopo gli attacchi di Orlando e Franceschini, i suoi fedelissimi escludono invece un suo passo indietro. Il terreno di scontro è quello delle possibili alleanze in vista delle politiche. Nel PD, l'ala critica di Renzi guarda soprattutto a Giuliano Pisapia, che sabato a Roma terrà a battesimo Insieme, la nuova formazione nata dall'unione tra campo progressista e gli ex democratici di MDP, un appuntamento al quale parteciperanno anche esponenti Dem come Zingaretti e Bassolino, oltre allo stesso Orlando, che sarà presente anche all'iniziativa renziana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi ci ritroviamo per il nostro giro per l'Italia, giro per l'Italia che ci porterà per parecchio nel sud oggi, soprattutto tra Sicilia e Calabria, per parlare di sbarchi, di immigrazione, ma anche di incendi. Tra l'altro c'è questa notizia, o meglio una denuncia ai sindacati riportata dal quotidiano La Repubblica nella sua edizione locale, quella siciliana, dalla quale si apprende che in un momento di grande difficoltà per la siccità, di incendi, ci sono 50 autobotti in tilt nel palermitano perché non è stata fatta la manutenzione. Anche di questo ci occuperemo più avanti, intanto sentiamo il traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta tanto su Radio 24 quanto sulla pagina Facebook di Effetto Giorno e sulla pagina Facebook di Radio 24. In diretta video siamo anche là. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'incriminazione per pedofilia per il cardinal Pell, di immigrazione sulla quale torneremo tra un attimo, abbiamo parlato di Iraq dove a Mosul sono state conquistate le rovine della moschea e, come avete sentito, abbiamo parlato anche di stalking. Un ascoltatore ci dice: è inutile fare le leggi contro le stalking se poi non vengono applicate. Come avete sentito, qua c'è il tentativo di qualche procuratore di mettere in campo misure preventive che possano servire da questo punto di vista. Speriamo che effettivamente funzionino. Invece voglio rispondere anche all'ascoltatore Giampiero che ci dice: in questi casi, quando parliamo di immigrazione, la dobbiamo smettere di far ascoltare solamente i rappresentanti di UNICEF e Save the Children o simili. Tra l'altro abbiamo in linea esattamente una persona di Save the Children, ci arriveremo tra un attimo, perché in questo modo la vostra trasmissione è soltanto di parte sul tema dell'immigrazione. A parte che non sappiamo esattamente cosa voglia dire essere di parte, ma in questa trasmissione, come lei saprà, Giampiero, se è un ascoltatore attento, abbiamo sentito tutti, dai sindaci ai prefetti, passando per i responsabili politici più alti, arrivando ai sindacati di polizia, persino i comitati di quartiere. Mi sembra che in questo spazio sia stato dato voce a tutti, a chiunque quantomeno metta le mani all'interno del problema. Le organizzazioni non governative lo fanno più spesso di altri, semplicemente perché operano nel Mediterraneo e poi si occupano anche della salvaguardia di queste che, vogliamo ricordarlo, sono sempre delle persone, perché poi qualcuno tende a dimenticarsi da questa cosa. Salvatore Martello è il nuovo sindaco di Lampedusa, buongiorno e benvenuto Martello. Buongiorno. Allora, come la legge quest'idea di Minniti e dell'Italia che al momento è una minaccia e, ad una lettura almeno superficiale, da quel che possiamo vedere sembra che possa rimanere tale, perché l'idea sembra essere quella di voler far muovere l'Europa, di dire attenzione, noi chiudiamo i porti alle navi delle ONG che non battono bandiera italiana, per dire all'Europa, beh, muovetevi, ci dovete dare una mano. Però nell'ipotesi si dovesse verificare, lei come la legge? Secondo me il discorso è che ogni soccorso cioè i soccorritori quando intervengono praticamente fanno salire sulla nave battendo bandiere, diciamo, italiana o spagnola, fanno salire i profughi. E purtroppo esiste la legge che riguarda dello stato di appartenenza, quindi chiudere i porti non lo so che cosa voglia dire, però se è giusto che ogni nave che soccorre, che fa dei soccorsi, li porta nel paese di appartenenza. Questo ritiene, nel paese di appartenenza. Però se poi il paese di appartenza è per esempio la Germania, ci sono una serie di ONG tedesche che operano nelle acque del Mediterraneo e nelle acque di fronte alla Libia, poi tocca arrivare ad Amburgo e se ci sono delle persone che stanno male dentro, questo rappresenta un problema, Martello, no? Sì, rappresenta un problema, però il problema vero è che chi partecipa, quali sono le nazioni europee che partecipano praticamente a questo evento, partecipano ai soccorsi. E non è che tutto il peso può ricadere sull'Italia, può ricadere sul governo italiano e nel caso specifico in Sicilia e Lampedusa. Non possiamo essere solo noi i porti dove si fa accoglienza. Certo, fino a quando è un flusso normale è giusto che si continui a fare così, in questo modo, però se i flussi incominciano a diventare troppo esosi, sarebbe il caso che l'Europa incominciasse a prendere anche delle iniziative per far arrivare direttamente in certi porti che non sono italiani i profughi. Tra l'altro avete avuto altri sbarchi voi, no? Nelle ore scorse. Eh sì, abbiamo avuto due notti fa, ne abbiamo avuto quattro, poi uno, addirittura c'è stato un bambino di 3 mesi che l'avevano messo su un'imbarcazione diversa dalla madre, poi la madre l'hanno portata alla capitaneria di porto a Lampedusa e si sono ricongiunti, diciamo. E fino a quando il flusso è normale, che è sulle cifre di 400-500 persone, e il numero esatto per riempire il centro di Lampedusa, va bene. La cosa brutta è quando si ammassano le persone poi all'interno del centro, che diventa una non accoglienza, perché mettere insieme in un centro di 300 persone 270 persone, metterne 500, 600, 700 o addirittura 1000, poi diventa un problema, sì. Un problema diverso. Senza ombra di dubbio, Martello, tra l'altro ieri noi abbiamo ospitato di nuovo il procuratore di Caltagirone, che ha a che fare col Cara di Mineo, dove ci sono 3000 persone ammassate dentro, è una questione e un problema senza dubbio. Grazie a Salvatore Martello, chiedo ancora un attimo di attesa a Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the Children, perché abbiamo in linea anche Maria Concetta Di Pietro, che è sindaco di Augusta, è uno dei luoghi nei quali avvengono più sbarchi in assoluto. Di Pietro, buongiorno e buongiorno, benvenuta. A voi. E benvenuta. E lei come valuta invece questa ipotesi lanciata dal ministro dell'Interno? Guardi, io ritengo che non si può assolutamente pensare di fare gli sbarchi in punti diversi, anche perché queste persone è vero che vengono raccolte dalle ONG, ma il primo punto di sbarco, se togliamo la Malta, comunque la Grecia, rimane la Sicilia. Io credo che quella di Minniti sia più che altro una tra virgolette provocazione, perché siamo in un punto di stallo, cioè l'intervento in questo momento, ma già a partire da Mare Nostro, Frontex eccetera, ha visto finora la partecipazione degli altri stati membri dell'Unione Europea soltanto su base volontaria, e comunque siamo fermi assolutamente con le quote di riparto. Appunto il problema che sottolineava il collega, che peraltro è come dire in fondo alla lista, bontà sua, Lampedusa, rispetto al numero di sbarchi, perché Augusta già negli ultimi 2 anni è il punto dove avvengono di misura il maggior numero di sbarchi. Tenete conto, oramai i dati sono visibili in un'applicazione che c'è nel sito del Ministero dell'Interno, cosiddetta Cruscotto, e noi siamo arrivati ad oggi a 12.288 censiti dal Ministero. In realtà ad Augusta avvengono anche degli sbarchi autonomi, la quota effettiva quindi è quella di 12.847, quindi siamo a quasi 13.000 sbarcati ad Augusta. Contro praticamente, non so, a Lampedusa, ma ripeto, da questa applicazione si vede benissimo. Il problema è naturalmente poi smistare tutti questi immigrati che vengono, e tra l'altro in queste quote c'è un altro numero preoccupante, che sarebbero sempre dall'inizio dell'anno ad Augusta sbarcati 1.101 minori stranieri non accompagnati. E il problema è poi appunto trasferire questi immigrati e la ripartizione delle quote in Europa, perché diciamo che l'Italia, pur se si è mossa con il piano di riparto, quel protocollo ANCI per i centri SPRAR per la seconda accoglienza, comunque è un sistema che già sta vedendo la resistenza di molti sindaci, ma al di là della resistenza di molti sindaci, prima o poi, ammesso e non concesso che tutti i comuni italiani, come dire, aderissero secondo queste quote di riparto, questo fenomeno migratorio certo non si esaurirà l'anno prossimo, per cui arriveremo comunque a saturazione. Quindi ci vuole veramente una risposta concreta dall'Europa, perché sì, Non può essere solo un problema italiano. Allora, Di Pietro, siamo tra l'altro perfettamente d'accordo. In questi minuti il commissario europeo agli affari interni Atene Dimitris Avramopoulos dice: la cosa più importante è che l'Unione Europea non lasci l'Italia da sola, siamo al fianco dell'Italia, capiamo perfettamente la situazione sul terreno e sono sicuro che la risolveremo, ma è la stessa cosa che sentiamo da anni. Comunque, grazie a Maria Concetta Di Pietro, sindaco di Augusta, Giovanna Di Benedetto, dunque portavoce di Save the Children, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Mentre un ascoltatore ritira fuori via WhatsApp la vicenda del complotto, un'invasione programmata. Ragazzi, per favore, non ritiriamo fuori queste cose, ma adesso che mettiamo in mezzo Soros, Bilderberg, cosa vogliamo mettere in mezzo? Per favore. Giovanni Di Benedetto, portavoce di Save the Children, guardi, più che altro per la cronaca, nel senso, io so che voi al momento su questa cosa dei Minniti non volete un granché commentare, perché finché non ci sono atti concreti c'è poco da commentare. Più che altro so che state sbarcando 1000 persone dalla vostra nave a Reggio Calabria, no? Esattamente, mi trovo qui a Reggio Calabria, dove stamattina è arrivata la Vofestia con più di 1000 persone a bordo. Sono state giornate molto intense per il nostro staff, hanno lavorato più di 20 ore di seguito con le navi di altre ONG, della Guardia Costiera, delle navi militari, e appunto sono riuscite a salvare in mare più di 1000 persone, tra loro ci sono moltissimi bambini, più di 50 sono piccoli, addirittura c'è un bambino di una settimana e due notti fa una bambina è nata a bordo, quindi questa è una bella notizia. E ci sono poi oltre 200 minori non accompagnati, perché come diceva il sindaco di Augusta, è vero, a ogni sbarco c'è una presenza oramai costante, elevata, cospicua di minori stranieri non accompagnati. Noi abbiamo presentato qualche settimana fa il primo atlante sui minori stranieri non accompagnati, per dire che appunto dal 2011 al 2016 ne sono arrivati più di 62.000 e c'è stato soprattutto un incremento negli ultimi 4 anni del numero dei minori stranieri non accompagnati che hanno un'età sotto i 14 anni. Sono triplicati in 4 anni, considerate che anche oggi sulla nostra nave ci sono dei minori che sono arrivati da soli, che hanno solo 9 anni. Grazie a Giovanna Di Benedetto anche per questo aggiornamento, portavoce di Save the Children. Qua molti continuano a parlare di Malta, ce lo scrivono via SMS e via WhatsApp. Allora, avete ragione, Malta ne ha accolti zero. Tenete presente che Malta ha una dimensione che sono di 300 chilometri quadrati, cioè parliamo di una dimensione, per darvi un'idea, che è un terzo in più di quella di Milano, insomma, quindi ne potrà accogliere un po', non è che ne potrà accogliere tantissimi, evidentemente, proprio per le dimensioni che ha. Poi che un po' ne possa accogliere non c'è il minimo dubbio, che si rifiuti di accoglierlo e questo sia un problema da un punto di vista politico non c'è dubbio, che la dimensione di Malta, che è più piccola del Molise, non consenta nemmeno, che non consenta di accoglierne così tanti, anche questo è oggettivamente vero. Andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ritorneremo e cambiamo finalmente argomento, veniamo alla siccità in Sicilia da una parte e poi alla decisione del nuovo sindaco di Padova di annullare la famosa ordinanza anti-kebab voluta da Bitonci, una sorta di gesto simbolico. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno e sulla pagina Facebook di Radio 24. I nostri titoli: il numero 3 del Vaticano a capo delle finanze incriminato per pedofilia, il cardinal Pell congedato temporaneamente andrà in Australia per difendersi. Migranti ancora sbarchi a Catania, Salerno, Reggio Calabria. Limite raggiunto, l'Europa faccia sul serio, dice Minniti, che conferma l'ipotesi di chiusura dei porti. Siccità e ancora crisi in molte regioni del centro-sud. In Sicilia iniziano gli incendi, ma non ci sono i soldi per la benzina, per le autobotti e nemmeno per la manutenzione. L'esercito iracheno conquista le rovine della moschea di Mosul. Secondo la televisione di Stato, con questa operazione l'ISIS è finito. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, giusto per chiarire altri due elementi sul tema dell'immigrazione. Qualche ascoltatore ci dice: ma sì, sono stato a Malta, non è una questione di dimensioni dell'isola, è una questione di precisa scelta politica. Ma l'abbiamo detto anche noi, l'abbiamo detto un istante fa, è una questione di scelta politica, però è anche una questione di dimensioni. Nel momento anche nel quale decidessero di accogliere dei migranti, non hanno le dimensioni bastanti ad accoglierne tanti quanti ne arrivano, e questo è un primo punto. Secondo punto, abbiamo detto Malta è più piccola del Molise. Qualcuno mi dice: ma il Molise non esiste. Oh ragazzi, mia madre è molisana, e quindi vi posso dire per certezza, ci sono anche stato, che il Molise esiste. Antonello Cracolici, assessore all'agricoltura della regione Sicilia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Per parlare di siccità, ora so che non è sua competenza e quindi non le farò domande su quello che leggiamo in queste ore dalle edizioni locali dei quotidiani, in particolare del quotidiano La Repubblica, nel quale si racconta di questa denuncia dei sindacati a fronte degli incendi che ci sono stati di autobotti, 50 autobotti in tilt perché non è stata fatta la manutenzione, e autobotti che sono addirittura senza benzina. Ma le chiederò invece qual è la situazione per quanto riguarda in generale le risorse idriche, in particolare le risorse idriche per l'agricoltura. Guardi, allora, per quanto riguarda gli incendi è evidente che non, la questione non è connessa minimamente alla siccità. Certo, il fatto che non ha piovuto rende più facile. Ieri è stata una giornata infernale perché c'è stato un attacco di scirocco pesante in Sicilia, quindi lo scirocco è il vento che fa propagare il fuoco con maggiore facilità. Rimane il fatto che il fuoco qualcuno lo attacca diciamo dolosamente. Detto questo, per quanto riguarda la situazione della siccità, noi in atto, almeno dai dati che mi confermano gli uffici, pur in presenza di una riduzione del 15% circa delle precipitazioni tra il 2016 e il 2017, gli uffici mi confermano che non siamo ancora in una situazione di emergenza, se non in alcune specifiche realtà dove stiamo provvedendo comunque a risolvere i problemi. Per il resto siamo in grado di garantire le quantità necessarie oltre che per il potabile, che diciamo inevitabilmente prevalente, anche per l'uso irriguo, e quindi le nostre produzioni agricole allo stato degli atti non dovrebbero subire particolari diciamo condizioni di sofferenza. I previsori meteo che vi dicono? Beh, i previsori meteo, noi in questo anno e mezzo abbiamo avuto una caratterizzazione di piogge intense ma brevi. Questo produce delle difficoltà, perché quando le piogge sono intense hanno l'effetto di portare negli invasi anche terriccio, cioè portano materiale solido che riduce la quantità, diciamo la superficie utile degli stessi invasi nella erogazione. E allora questa è una delle difficoltà, per cui non basta che piova. Noi auspichiamo che piova, diciamo, in maniera meno intensa ma più lunga nel tempo, proprio per consentire di riempire in maniera pulita gli invasi che accumulano acqua. Noi fortunatamente il nostro sistema di accumulazione è fortunatamente proiettato in un accumulo diciamo mediamente biennale, quindi siamo in grado di reggere diciamo le situazioni di difficoltà idrica avendo un tempo più lungo rispetto al tempo diciamo di consumo immediato. Immediato. Allora la ringrazio, grazie a Antonello Cracolici, assessore all'agricoltura della Regione Sicilia, pesca e sviluppo rurale per essere completi della Regione Sicilia, per questo aggiornamento. Saluto Sergio Giordani, che è il neo sindaco di Padova. Giordani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, c'è qualcuno che l'ha definita la debitoncizzazione di Padova. Nel senso che lei ha annunciato oggi che vuole eliminare quest'ordinanza antiche babari che era stata varata da Bitonci, che riguardava, se non erro, soprattutto la zona intorno alla stazione, no? Dalle 8 in avanti niente più vendite di kebab e cose di questo genere. Vanno sicuramente eliminate perché prima non ha dato nessun risultato, e poi hanno creato anche altri tipi di problemi. io penso che non servano cose del genere assolutamente, per cui verrà eliminata questa ordinanza a tempo breve. Però c'è un elemento di decoro in un'ordinanza di questo genere o no, secondo lei, Giordani? Cioè c'è anche il fatto, no, che là intorno poi si accumuli, se vogliamo, un determinato mondo, poi intorno alle stazioni c'è sempre un qualche problema di questo tipo. Attorno alle stazioni sono mille problemi. Nella mia logica, nella nostra logica, è far sì che tutti i negozi oggi sono chiusi, trovare il modo che siano illuminati e aperti attraverso piccole associazioni, cultura, artigianato. Bisogna rendere viva la città. Ci sono molti negozi chiusi perché non sono attrattivi sotto l'aspetto commerciale, ma grazie se interviene il comune con altri sistemi per far sì che ci siano negozi illuminati, secondo me è il primo deterrente. Ovviamente polizia urbana, ovviamente telecamere, tutte le cose possibili per evitare spaccio e evitare altre cose che non sono certamente positive. Ci vogliono quattrini per tutto questo, Giordani, no? Stanziamenti. Ci vogliono quattrini, ci vuole aiuto di Roma, ci vogliono tantissime cose. Utilizzare i contributi europei, bisogna andarsi da fare, non è che basta girare la chiave e domani mattina abbiamo risolto il problema, bisogna insistere a fare. Allora, questo è il quadro da Giordani, almeno per quanto riguarda quest'ordinanza. Vedremo come proseguirà dal lato dell'amministrazione. Qualcuno già la contesta, via WhatsApp e via SMS. Ma è chiaro che contesta, cioè, sarebbe strano che non succedesse il contrario. è chiaro che tutti hanno problemi. Si tratta di risolvere con il buon senso, come dico sempre, le cose. Cercare di capirsi, ognuno fa un passo indietro perché la comunità è più importante di tutti. Sono state fatte anche nel tempo altre cose che non mi sono piaciute. Fiera delle Parole è stata cancellata perché l'ex sindaco diceva che erano manifestazioni di sinistra. A me non interessa, io sono un imprenditore, sono un civico, non ho colore politico, io ho un partito che si chiama Padova. A me non interessa niente che sia di destra, di sinistra. Sì. No, la cultura dice, basta che porti turismo e gente in città. Abbiamo tolto 70.000 persone una settimana a Padova, se non è mica normale fare queste cose, no? A me non interessano queste cose, a me c'è piena libertà di qualsiasi cosa, nel senso, finché c'è rispetto per gli altri, ma le manifestazioni possono essere di sinistra, di destra, di centro, basta che ci sia il rispetto per gli altri, la sicurezza, per me va tutto bene, come l'unione civile, stessa cosa. Sì. Coppie gay non possono sposarsi a Padova o devono farlo solo in determinati giorni. C'è una legge, basta. Allora Giordani, Sergio Giordani, io la ringrazio, neo sindaco di Padova. Molti ascoltatori, probabilmente da Padova, contestano questa impostazione e vedremo nell'applicazione pratica come andranno le cose. Il tempo, Giordani, un intero mandato, ammesso che la maggioranza regga, per vedere che le cose funzionino. Grazie dunque a Giordani. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.